Il punto di Stefano Folli. Le notizie che arrivano dall'Iraq e da certe zone della Siria parlano di una lenta ma inesorabile avanzata dell'esercito fondamentalista e di atti eroici compiuti dai combattenti curdi. Una tragedia che si compie giorno dopo giorno senza che i bombardamenti della raccogliticcia coalizione messa in piedi da Obama riescano a ottenere risultati certi. Colpiscono due aspetti. Primo, che tra le nazioni impegnate con i loro aerei ci siano anche Belgio e Olanda, ma sia del tutto assente l'Italia. Non è una novità, era già stato annunciato dal governo, ma via via che la guerra prosegue, scalando i gradini dell'orrore mediatico, si poteva sperare in un ripensamento, che invece non c'è. Secondo aspetto, i curdi continuano a chiedere almeno armi, carri armati, munizioni. Qui l'Italia aveva promesso di fare qualcosa, ma non si capisce come stia esattamente la questione. I lamenti dei curdi fanno pensare che l'aiuto italiano sia stato, in ogni caso, appena una goccia nel mare. E allora sarebbe interessante capire qual è, se esiste, l'obiettivo politico di questo bassissimo profilo scelto dal nostro governo.